Come vi avevamo annunciato prima del pezzo, abbiamo qua ai nostri microfoni Lorenzo Pellegrini di And Logic, oppure Slash And Logic. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao, piacere. Come dobbiamo diciamo dire il vostro nome? Slash? Ma in realtà sì, è And Logic la, ah, And Logic. Ok, noi abbiamo citato anche lo Slash, ma meglio mettere cose in più che in meno, no? Allora, vogliamo entriamo subito nel clou di questa intervista. Volevamo sapere da te come nasce il vostro progetto. Allora, il progetto è nato a Firenze nel 2016 e in principio era un trio un po' più orientato verso l'elettronica e abbiamo mosso i primi passi insieme al Rock Contest di Controradio, è un concorso e praticamente il nostro primo live l'abbiamo fatto in occasione della semifinale e poi della finale del Rock Contest, che poi andava bene, infatti insomma abbiamo vinto e questo ci ha permesso di poter iniziare un po' a girare, perché poi da lì abbiamo fatto un tour, è uscito il primo EP e poi la formazione si è allargata, è diventato un quartetto e da sonorità un po' più elettroniche abbiamo assunto influenze un po' diverse, un po' più anche un po' più sul rock, sul soul e adesso appunto a maggio, il 3 maggio è uscito il primo disco con Woodworm Label che si chiama Nobody Panic e appunto abbiamo sentito il singolo che si chiama Communicate. Ecco, a questo proposito parlavi di generi musicali, come descrivete il vostro genere, a chi vi ispirate, insomma, che sonorità toccate? Allora, per definirlo abbiamo trovato un po' questa dicitura che è experimental pop, che vuol dire un po' tutto un po' niente, nel senso che diciamo che experimental pop nel senso che è pop nel momento in cui c'è una forma canzone, c'è una struttura di riferimento, però experimental nel senso che dentro ci può essere qualsiasi cosa, quindi dentro la forma canzone qualsiasi influenza possibile è ben accetta, un po' questa è la nostra estetica e diciamo che le influenze principali sono, come dicevo prima, appunto l'elettronica, il soul, però appunto c'è anche un po' di progressive rock, c'è un po' di anche se non sembrerebbe al primo ascolto, c'è un po' di folk e artisti a cui ci riferiamo sono appunto dei gruppi che hanno questa cosa in comune, nel senso questa sperimentazione all'interno del pop, tipo i Radiohead, tipo gli Algeri, i No Twist, Dirty Projectors. Certo. E poi vabbè, grandi mostri sacri tipo i Beatles e altri. Ma poco fa invece hai citato l'EP che avete pubblicato, che a quanto pare è stato un successo. Ce ne vuoi parlare un po' brevemente? Allora, l'EP appunto erano quattro pezzi e appunto dato che è uscito nello stesso periodo del Rock Contest siamo stati molto fortunati, perché ciò gli ha permesso di essere, come dire, di avere molta visibilità in più e insomma sì, direi che è un lavoro un po' più elettronico, nel senso che è stato fatto quasi prima che la band esistesse, nel senso che l'ho prodotto io in casa da solo, praticamente un progetto elettronico fatto tutto al computer, quindi non c'era ancora un'idea di live dietro. Questa cosa devo dire si sente molto, soprattutto risentendolo ora a posteriori, anche a mio parere sono un po' freddino, nel senso che tutti questi elementi elettronici sono un po', come dire, non avrebbero potuto guadagnare, infatti poi con l'album l'hanno fatto di un po' di, come dire, di calore umano, di suoni veri, acustici. Ecco, a proposito dell'album che hai appena citato, noi alla fine stiamo presentando dei brani che sono presenti all'interno di Nobody Panic, ce ne vuoi parlare? Sì, allora Nobody Panic è il frutto di un percorso durato quasi 2 anni, però appunto dall'uscita dell'EP e dentro ci sono 9 brani che sono una sorta di compendio di tutto quello che è successo in questi 2 anni, soprattutto di tutte le varie evoluzioni che ci sono state anche dal vivo e sì, si potrebbe descrivere come un po' un collage di generi che ha come fil rouge una, appunto la forma canzone e il pop e un'altra cosa si può dire è che appunto oltre ci sono 8 pezzi originali, però alla fine c'è anche una cover che è Paranoid Android dei Radiohead, anche se è abbastanza trasfigurata come cover, nel senso che non è quasi riconoscibile la struttura originale. Ci siamo un po' divertiti un po' a distruggerlo. Certo, l'avete fatta un po' vostra, ecco. Sì. Ma avete, diciamo, date in programma, un tour in programma? Allora, sì, a luglio-agosto avremo 2 mesi di fuoco, perché abbiamo in tutto 25 date, tra cui diversi festival belli, e appunto ora questo abbiamo iniziato, il release party del disco è stato a fine aprile, subito prima che uscisse il disco, a Firenze. E poi questo mese di giugno ce lo siamo presi per fare qualche miglioria per il live, e appunto dal 30 giugno, che saremo al Bori Music Festival a Brescia, faremo questa ventina di date, insomma. E un po' il lungo e il largo, devo dire, magari un po' più al nord che al sud, però al sud avremo 2 date belle, sono una Disorder Festival a Ebole, una Ipsig Rock vicino a Palermo, però sì. Per il resto soprattutto a centro-nord. D'accordo. Allora, soprattutto vogliamo lasciare magari detto dove possono gli ascoltatori recuperare varie informazioni su date, novità, cose di questo tipo? Allora, sì, oltre ai social normali, appunto sia Facebook che Instagram, sono abbastanza aggiornati su tutto, abbiamo anche un sito che è proprio handlogicmusic.com, si ricorda anche bene, dove c'è tutto, ci sono tutti gli aggiornamenti, e tra l'altro ci sono anche i testi del disco a chi potesse interessare. Perfetto, allora Lorenzo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato ai microfoni con noi, invitiamo gli ascoltatori ad ascoltare appunto l'ultimo album appena uscito degli End Logic, intitolato Nobody Panic. Li lasciamo, anzi, prima della pubblicità, al vostro 5º brano, e speriamo di risentirci presto. Grazie ancora. Grazie mille. Ciao, ciao. Lorenzo, grazie. Ciao.